Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi incontriamo un protagonista della finanza italiana che ha contribuito a innovare in maniera radicale la gestione del risparmio. È Ennio Doris, presidente e fondatore del gruppo Mediolanum, il quale racconta la sua vita e il suo percorso di imprenditore finanziere di successo nel libro C'è anche domani, scritto con Leopoldo Gasbarro e pubblicato da Spelling & Kupfer, 202 pagine, 16,90 euro. La testimonianza di Doris è molto interessante. Innanzitutto perché ci offre il quadro di un self-made man autentico che in relativamente pochi anni, partendo da condizioni di grande modestia economica, ha saputo creare un vero e proprio impero finanziario, facendo leva soprattutto su un innato ottimismo che evidentemente non è candore, ma capacità di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà e anzi dalla capacità di rilanciare dinanzi a queste difficoltà. Non a caso questo libro è costruito con i capitoli della vita di Doris che sono intervallati con la cronaca delle giornate terribili del crack di Lehman Brothers, al termine del quale Doris prenderà una decisione clamorosa, quella di restituire addirittura ai risparmiatori che si erano affidati al suo gruppo gli investimenti che avevano come sottostanti proprio dei titoli di Lehman Brothers. Ma sentiamo adesso l'autore. Buonasera Ennio Doris. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ennio Doris, allora cominciamo dal titolo del suo libro, C'è anche domani, un riferimento a una frase che le disse suo papà in occasione di una grande delusione sportiva che poi diventò una grande soddisfazione, aveva per protagonista questo sentimento Coppi. Che cosa ha rappresentato questa frase nella sua carriera? Ma guardi, in un certo senso mi ha cambiato la vita, perché quella era la delusione più cocente della mia vita fino a quel momento. Avevo 12 anni, non avevo ancora compiuto i 13, Fausto Coppi era l'idolo, in quei momenti il ciclismo era una cosa incredibile, coinvolgeva tutto e tutti, più della politica, più del calcio, più di ogni altra cosa. E quella era la tappa il 30 maggio del 53 in cui Coppi, la tappa dolomitica, Oronzo Bolzano avrebbe dovuto strappare la maglia rosa a Ugo Koblet. Ed eravamo tutti al bar come succedeva allora, e invece questo non è successo, non ce l'ha fatta. E Coppi fra l'altro dichiarò alla radio: sono contento di essere secondo un così grande campione. Allora la delusione è fortissima, le immagini, gli sfottò e l'allegria dei tifosi di Bartali, che ormai aveva troppi anni e quindi si erano convertiti su Koblet per battere Coppi. E io non piangevo per vergogna, diciamo, per non dare soddisfazione, ma sono tornato a casa, era a 100 metri dal bar, dall'osteria, da casa mia, insieme con mio papà, ed ero veramente distrutto, avevo le lacrime che mi scendevano, e mio papà mi ha messo le mani sulle spalle, si è fermato e mi ha detto: Ennio, guarda, mi ha detto, ricordati che c'è anche domani. E quella frase l'ha detto da mio padre, di cui io avevo una fiducia infinita. E allora io mi sono sentito che qualche cosa dentro di me di diverso era nato. Poi il caso ha voluto che il giorno dopo ci fosse la tappa dello Stelvio, e quindi il giorno dopo Coppi riuscisse a battere Ugo Koblet e prendere la maglia. Ma al di là di questo, questa frase qua mi si è impressa come un marchio a fuoco dentro di me e mi ha accompagnato tutta la vita. E poi appunto una previsione che fu fortunatamente realizzata. In questo libro lei intervalla la storia della sua vita con l'esplosione della grande crisi finanziaria del settembre del 2008. Sì. Che cosa rappresenta, che cosa ha insegnato agli operatori della finanza, a lei in particolare, questa crisi? Ma guardi, questa che ha causato poi è la più grave crisi del dopoguerra, ma soprattutto per la prima volta vivevamo noi operatori del settore finanziario qualche cosa che prima avevamo letto sui libri, il fallimento di una banca, cose che erano avvenute negli anni 30, prima della guerra, e che aveva portato a tutta una serie di cambiamenti di regole per evitare che i risparmiatori perdessero i loro risparmi col fallimento di una banca, ma soprattutto per evitare che si generasse una fiducia più generale nel sistema. E quindi questo lo vivevamo in prima persona, era una cosa drammatica. Ma vede, è stata in un certo senso un'opportunità straordinaria, perché avendo fatto la banca 11 anni prima, nel 97, e io volevo cambiare, diciamo, l'immagine della banca sul mercato, volevo farlo in modo diverso, in maniera che ci fosse trasparenza, che la banca fosse veramente al fianco del cliente, che se faceva una promessa la manteneva. Per cui quando incontravo i potenziali clienti dicevo: guarda, noi paghiamo questo tasso qua per questi 3 mesi, poi con 20 giorni di anticipo ti dico quale sarà il nuovo tasso, i costi sono questi, e tutti mi dicevano: sì, adesso per acquisirmi mi dici questo, ma poi, come tutte le banche fanno, una volta acquisito il cliente poi cambi le condizioni senza avvisare. Per cui quando c'è stato questo fallimento io ho pensato: questo è il momento in cui possiamo dimostrare che noi siamo veramente diversi, che facciamo banca in maniera diversa. Ecco, a proposito di questo, quando lei muove i primi passi nel mondo della finanza, scrive nel suo libro di aver confessato a sua moglie, la signora Lina, di voler essere un medico del risparmio. Perché sì. Usa questa espressione? In realtà era quello che mi dicevano nella società dove ho incominciato a lavorare, in Fideuram, dove mi dicevano: noi andiamo dai clienti e attraverso i fondi, che erano degli sconosciuti, facciamo investire i clienti come se fossero agnelli, nel senso che mettendo insieme i soldi di tanti piccoli risparmiatori si fa un grandissimo capitale, quindi possiamo avere dei gestori, dei consulenti che decidono, molto esperti, che altrimenti non potresti pagare, che decidono gli investimenti, e puoi investire in tutto il mondo con 10 milioni di lire come se fossero 100 miliardi. Questo è la banca tesoriera. Quindi noi andavamo sul mercato in un certo senso per fare di ogni piccolo risparmiatore un investitore alla Agnelli. Allora c'erano solo fondi azionari e ci dicevano: voi siete i medici del risparmio. E con questa idea io ne avevo parlato a mia moglie ed ero entusiasta di questo, fino alla sera in cui ho incontrato il falegname di cui parlo nel libro. Certo. Poi un altro incontro decisivo è quello descritto a pagina 128, irrompe nel libro e nella sua vita Silvio Berlusconi. Che cosa ha rappresentato Berlusconi? Beh, è stato diciamo, l'incontro più importante della mia vita, perché grazie a quell'incontro là io ho potuto realizzare quel disegno che avevo concepito quella sera che ero stato dal falegname, il quale falegname, quando investì 10 milioni di lire, era verso mezzanotte, mi consegnò l'assegno e mi dice: signor Doris, sa cosa le ho dato? Io ho detto: sì, 10 milioni. Lui disse: no, si sbaglia, allora ho controllato, ma sono 10 milioni. Allora lui ha detto: non ha capito, mi ha mostrato le mani, che erano dei calli mostruosi, e mi ha detto una frase significativa: si ricordi che io non posso permettermi il lusso di ammalarmi, altrimenti la mia famiglia non vive. Allora, se lei gestirà bene il mio risparmio per 15 anni, finalmente io potrò avere un gruzzolo, un capitale che mi consenta di ammalarmi. Allora quella sera là io ho capito che non era vero che ero un medico del risparmio, perché quello, se avevo una malattia, la mia cura lo facevo guarire in 15 anni. Quando c'era una medicina, una polizza infortuni, malattie, spendeva 1,5 milioni circa all'ora e il giorno dopo poteva ammalarsi. Quindi quella sera là io ho capito che i muri esistenti fra banche, assicurazioni, società finanziarie, dove ognuno tirava per la giacchetta il cliente e uno diceva: no, è meglio questo, non è meglio quello, erano sbagliati contro l'interesse del cliente. Quella sera là io ho capito che cosa vuol dire fare il medico risparmio, vuol dire avere tutte le medicine e quindi avere i prodotti assicurativi, bancari, finanziari. Era un'idea difficilissima da realizzare, lei pensi, occorrevano cifre enormi, creare una banca, creare una compagnia di assicurazione allo stesso tempo, per cui ho lavorato come un pazzo, finché non ho incontrato Silvio Berlusconi a Portofino, molto casualmente, e siccome, qua un'altra circostanza, qualche settimana prima avevo letto una sua intervista su Capital, dove diceva: se uno vuol fare l'imprenditore, che suggerimenti gli dà? E lui rispose: di venirmi a trovare. Io lo ricevo, se vado da Agnelli o De Benedetti non lo ricevono, io lo ricevo, se l'idea è buona la realizziamo insieme. Allora io ho pensato: lui questa intervista l'ha fatta per me, E c'era la sua foto in copertina, allora lui era sconosciuto, pochissimo conosciuto, in Lombardia, a Milano, ma non fuori. Canale 5 era proprio alle prime armi. E quindi grazie a quella copertina, incrociandolo a Portofino, l'ho riconosciuto e quindi mi sono presentato e abbiamo incominciato a parlare di questa idea che lui ha subito sposato. Senta, una domanda che va un po' al di fuori del libro, concludiamo con questo. Lei, chi la conosce, sa che lei è un assertore di una politica economica liberale, con pochi impacci, con un ridotto peso dello Stato. Ecco, perché il suo amico Berlusconi non è riuscito a fare queste cose? Perché né lui né nessun altro primo ministro è in grado di approvare delle riforme veramente forti, perché in Italia il primo ministro non ha poteri, ci sono solo governi di coalizione dove i singoli partiti si paralizzano l'un l'altro, e questo quindi rende impossibile qualsiasi riforma radicale. Se lei prende la Francia, nel dopoguerra era messa come noi, poi la crisi d'Algeria è stata così grave che i francesi sono spaventati e hanno dato, pur in un sistema proporzionale, a maggioranza assoluta, a un uomo forte, il generale De Gaulle, che di economia capiva niente. Ma cosa ha fatto il generale De Gaulle? Ha cambiato il sistema, ha fatto un sistema maggioritario, e da quel momento in poi i primi ministri o i presidenti della Repubblica francesi hanno potuto prendere decisioni. In Italia questo ancora oggi non è possibile. Speriamo in Renzi. Bene, grazie a Ennio Doris, autore di C'è anche domani. Buona serata. Grazie a lei, buonasera a tutti. Rimaniamo in tema finanziario, tornando alle origini, col libro di uno storico dell'economia, in particolare dell'Italia meridionale, Amedeo Feniello, che ha scritto Dalle lacrime di Sibille, storia degli uomini che inventarono la banca, pubblicato dalla Terza, 300 pagine, 16 euro. La Sibille del titolo è una nobile provenzale, Sibille de Cabri, che nel 1335 perde il marito, giovanissimo come del resto lei, che in quel momento è incinta. E da qui nasce il dramma di questa donna. La famiglia del marito infatti le si rivolta contro e complotta per impossessarsi dei suoi beni. Nato il figlio, il re di Napoli, perché a Napoli la donna aveva un ulteriore possedimento, le ordina di non sposarsi e più. Le condizioni economiche che erano molto agiate si fanno difficili, e allora la donna nel 1339 decide di vendere un castello che le apparteneva appunto nel regno di Napoli per acquistarne uno in Provenza. L'impresa va a buon fine, viene ottenuta una notevole somma di 1591 fiorini che viene depositata a Napoli presso un banchiere di Firenze, ma il rappresentante ad Avignone di questa banca si rifiuterà di consegnare il denaro perché la banca rappresentata, che è quella dei Buonaccorsi, nel frattempo era fallita. E di qua nasce la disperazione di Sibille, ma anche la sua indefettibile volontà di recuperare la propria ricchezza. Passano 10 anni e nel 1355 Sibille avvia una complicatissima procedura giudiziaria al Tribunale della Mercanzia di Firenze per avere giustizia. Non vi dirò come finisce questo processo, anche perché la conclusione non è certissima, ma aggiungo solo che la storia, autentica e documentata, dà lo spunto all'autore per ricostruire, quasi fosse un romanzo, il modo in cui si sono fatti il mercato e la banca, e quindi l'economia moderna. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Vi segnalo adesso due anniversari francesi. Il primo è il centenario di Marguerite Duras, che è caduto venerdì scorso, e in questa occasione esce il libro di Sandra Petrignani, Marguerite, è pubblicato da Neri Pozz, 272 pagine, 16 euro. Questo libro non è una biografia, ma un romanzo che si ispira però fedelmente alla vita della scrittrice francese, che visse tra il 1914 e il 1996 e che aveva sostituito con Duras il nome proprio, che era Marguerite Donadieu. Scelse il nome di Duras perché quello di un castello vicino alla località d'origine del proprio padre in Guascogna. La parola Duras le piace. È un nome nobiliare, perentorio, musicale. Ha risonanze prustiane. Nella recherche, Madame Verdurin non sposa forse uno spiantato duca di Duras nel corso della sua scalata sociale? Marguerite odia il suo cognome, Donadieu. Lei con Dio non vuole avere niente a che fare, con questo Dio che permette l'atrocità, la sofferenza degli esseri, l'ingiustizia. La signorina Donadieu, laureata in giurisprudenza, impiegata durante la guerra al Ministero delle Colonie, ufficio stampa e propaganda, non esiste più. Ora lei, da quando ha pubblicato il suo primo romanzo, è Marguerite Duras, che ha partecipato alla Resistenza, che è comunista malgrado Stalin, l'annessione della Polonia e l'avvilente politica culturale dell'URSS. È comunista anche se il partito l'ha espulsa per insubordinazione e immoralità. Lei sarà comunista fino alla morte, sarà sempre dalla parte degli sconfitti, degli sfruttati, dei deboli e scriverà sempre i suoi romanzi, le sue commedie, come ha sognato da piccola. La Petrignani si ispira alle vicende della Dürer, che è stata autrice di libri e di film che sono rimasti nella storia della cultura francese, non soltanto del Novecento. La Dürer doveva avere un carattere non facile, per esempio si arrabbiò molto quando l'editore, ci ricorda Petrignani, determinò il grande successo, o contribuì a determinare il grande successo del libro L'Amante, che in pochi anni venderà più di 1,5 milioni di copie, ma che ruberà all'autrice quello cui teneva di più, e cioè l'anonimato. E così Petrignani descrive e definisce la scrittrice francese al termine del suo libro. Penso che Dürer sia un genio, perché non puoi classificarli in nessun altro modo, perché è uno dei rarissimi scrittori che ha inventato una lingua solo sua, subito riconoscibile. La cantilena Dürer l'hanno definita. È facile imitare la cantilena o certi moduli di questa lingua, ma è inimitabile la totalità dell'opera. È stata una scrittrice totalmente libera, prigioniera solo di se stessa, e per questo si è ripetuta senza ripetersi. Il suo cinema è una forma molto originale di letteratura per immagini e testo. A chi voglia leggere Marguerite Dürer ricordo i titoli principali: L'amante e il dolore sono pubblicati da Feltrinelli, Le storie di amore estremo da Mondadori, e poi in audio è pubblicato Il pomeriggio del signor Andemas e Una diga sul Pacifico. Due novità che invece vengono pubblicate proprio in questi giorni in occasione del centenario della Dürer sono La minaccia della luce e La ragazza del cinema. L'editore è Del Vecchio, i due libri sono tradotti da Angelo Molica Franco. Il primo in particolare, La minaccia della luce, è un'intervista di Michel Porte alla Dürer. Nel secondo, che è introdotto proprio da Sandra Petrignani, troviamo un inedito di Marguerite Dürer, Il camion, che è affiancato a un altro racconto della scrittrice, cioè Agatha. L'altro anniversario francese di cui volevo parlare è quello di un protagonista della rivoluzione francese, Georges-Jacques Danton, che morì 220 anni fa, il 5 aprile del 1794. L'anniversario non è proprio tondo tondo, ma insomma ricordiamo questa ricorrenza perché Danton è stato uno dei protagonisti della rivoluzione, ma soprattutto lo troviamo come uno dei protagonisti principali di una nuova storia della rivoluzione francese in due volumi, di cui è appena uscito il primo. Il libro è La storia segreta della rivoluzione, l'autrice è Hilary Mantel. È pubblicato da Fazzi, 320 pagine, 17,50 euro, con la traduzione di Giuseppina Oneto. L'autrice è una scrittrice inglese, dicevo, che ha scritto molti romanzi, e due cicli in particolare, questo dedicato alla rivoluzione francese che uscì nel 1992 e uno già pubblicato anche in italiano sui Tudor. Questo libro dunque è un romanzo storico che vuole darci un affresco completo della rivoluzione nella sua complessità e nella ricchezza e contraddittorietà dei personaggi, principali dei quali vengono seguiti in parallelo, intrecciando naturalmente le loro vite e le loro storie. Il protagonista più esposto risulta forse Marat, una sorta di ospite d'onore con poche apparizioni ma intriganti, e poi ci sono i grandi protagonisti visti giorno per giorno fin dalla fanciullezza della rivoluzione. L'autrice spiega qui di aver voluto salvaguardare la realtà storica senza cadere nelle pedanterie, nelle descrizioni troppo particolareggiate di ogni singolo partecipante. E tra i primi protagonisti che si incontrano nel libro naturalmente c'è proprio Danton, lo conosciamo da ragazzo quando è un giovane intrattabile scavezzacollo, e insieme a lui troviamo altri futuri amici e compagni dell'avventura rivoluzionaria, per esempio Desmoulins e Robespierre. Naturalmente accanto a loro non mancano le pagine dedicate ai sovrani, alla loro corte, agli ultimi anni dell'Ancien Régime, quando maturano le condizioni anche culturali per la futura rivoluzione. A un certo punto, per esempio, troviamo il principe di Condé, quindi un grandissimo nobile, che prima della rivoluzione naturalmente chiede all'avvocato Desmoulins che cosa diavolo voglia la gente in quel sordo ribollire che precedeva, senza che nessuno se ne fosse accorto, la rivoluzione. E l'interlocutore gli risponde: la gente come me, persone appartenenti a classi professionali, presumo vorrebbe un po' più di voce in capitolo, anzi mettiamola così, accoglierebbe a braccia aperte l'opportunità di mettersi a servizio. Vogliamo, insiste, uguaglianza civile, uguaglianza fiscale, uguale opportunità di avanzamento nella Chiesa e nell'esercito. E il principe gli risponde: uguale opportunità sembra una cosa contro natura. E sappiamo come andò a finire. Una ricostruzione su una tragica vicenda storica di cui abbiamo ricordato da poco il 70° anniversario è quello riguardante la distruzione dell'abbazia di Monte Cassino, che ritroviamo nel libro di Benedetta Gentile e Francesco Bianchini, I misteri dell'abbazia, la verità sul tesoro di Monte Cassino, pubblicato dalle Lettere, 192 pagine, 14 euro. Se quella della Petrignani era un romanzo biografico, questo si può definire un giallo storico, almeno così lo definisce nella prefazione Francesco Perfetti. Il mistero che qui viene affrontato riguarda il salvataggio di tantissime opere che erano custodite nell'abbazia, che secondo l'interpretazione più diffusa sarebbero state messe in salvo da un ufficiale austriaco, Julius Schlegel, che nell'autunno del 43 aveva appunto trasferito tutte queste opere. In realtà, scopre e descrive questo libro, non si trattò affatto di un salvataggio, ma Schlegel voleva rubare quelle opere. Il salvataggio fu realizzato da un altro alto ufficiale nazista, il generale von Zenger, che riuscì a far fermare le casse con i capolavori che stavano partendo per il Vaticano ufficialmente, ma che in realtà erano dirette a ampliare e arricchire il tesoro di Göring. Ultimi arrivi. Comincio con l'esordio di un ultra novantenne in forma molto brillante dal nome celebre, Giuseppe Sgarbi, papà di Vittorio e di Elisabetta, che ha scritto Lungo l'argine, l'ha pubblicato Schirà, 150 pagine, 15 euro, dove il farmacista, perché questa è la professione di Sgarbi padre, ripercorre la storia d'Italia dalla fanciullezza dell'autore fino a oggi. Una storia vista appunto dall'osservatorio di un lembo di pianura padana tra Veneto ed Emilia, una vita, quella di Sgarbi, segnata da una passione travolgente che certamente accomuna tutti quelli che ascoltano questa trasmissione, cioè la lettura. Infatti il libro inizia con queste parole: leggo da quando ero bambino, mi è sempre piaciuto e ho sempre letto tantissimo, leggevo ovunque, in cucina, in giardino, tra le macine del mulino, anche a letto. Ora che ho più di 90 anni e la vista non regge, mi lagno del fatto che si sta portando via uno dei più grandi piaceri della vita. E quindi auguri a Sgarbi perché possa leggere a lungo. Abbiamo parlato di un inossidabile novantenne, allora vi segnalo di Marco Trabucchi, che è un neuropsicofarmacologo di Roma, il libro I segreti di una vita sana e lunga è pubblicato da Mulino, 128 pagine, 11 euro, un libro divulgativo per fare capire le scelte che ciascuno di noi deve assumere per, come dice l'autore, costruire la propria fortuna, ossia per prepararsi una vecchiaia sana anche attraverso decisioni sociali di carattere collettivo che ci riguardano tutti. E infine vi segnalo un libro sul lavoro di Walter Passerini e Ignazio Marino, che sono due giornalisti e hanno scritto La guerra del lavoro, precariato, disoccupazione, licenziamenti, perché nessuno è al sicuro, come trovare un posto dignitoso in un conflitto ormai globale. Questo è pubblicato da Rizzoli, 412 pagine, 13 euro. E anche qui troviamo il richiamo a scelte e responsabilità tanto individuali quanto collettive per assicurare un futuro dignitoso soprattutto alle generazioni più giovani. E a questo punto il confettino. Arriva in Italia una saga che ha avuto un enorme successo soprattutto nei paesi di lingua inglese, è quella di Orsetto. Questo è il titolo del libro che viene pubblicato da Adelphi. L'autrice è Else Holmelund Minarik, le illustrazioni sono di Maurice Sendak, è pubblicata appunto da Adelphi, 15 euro, 64 pagine. Il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1957, qui è tradotto da Livia Signorini e apre appunto questa serie di avventure del piccolo orso, al quale seguirà altri quattro libri della stessa serie. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Filippo Aureggi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.